Whisky è un vecchio tixile, tempi di Charleston e di New Orleans. Fumo e i ritmi della band, un negro, una paglietta e tanto jazz. È lungo il Mississippi, passa dondolando lo showboat, un piccolo negrito l'accompagna saltellando col deep trap trap trap trap trap trap. Whisky è un vecchio Dixieland, tempi di Charleston e di New Orleans. Fumo e i ritmi della band, un negro, una paglietta e tanto jazz. Whisky è un vecchio Dixie, il caro Dixie e i ritmi della vecchia band. Charleston e di New Orleans. Fumo e i ritmi della vecchia band,